L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Darwin. Il tema è: dov'è l'acqua nel sottosuolo? E come è fatto questo sottosuolo? Io credo che sia largamente diffusa l'immagine che l'acqua che si preleva dal sottosuolo e poi si mette negli acquedotti si prenda da laghi che stanno sotto. Cioè si fanno tanti buchi, i pozzi, si infilano dei tubi, si tira fuori l'acqua con le pompe e poi si gira a casa il rubinetto e l'acqua viene giù. Ci possono essere laghi ma anche fiumi sotterranei, il sistema è sempre lo stesso. Ecco, adesso lo chiediamo a qualcuno che ne sa. Intanto benvenuto a Darwin, Lorenzo Barilli. Grazie. Lei è ricercatore del gruppo CAP, che è la società che gestisce il servizio idrico integrato nella parte dell'area metropolitana di Milano. CAP ha anche un centro di ricerche proprio sull'acqua, nel quale guardate avanti verso nuove potenzialità proprio in questo campo. E allo stesso tempo studiate molti degli aspetti generali di questo fondamentale liquido per la nostra vita. Allora, Barilli, come dicevo in apertura, cosa c'è nel sottosuolo? Nella nostra area, nella pianura padana in particolare, abbiamo veramente tanta acqua sotto i nostri piedi. Se si scava un buco nella nostra zona a 10-12 metri si trova già acqua, e poi fino a 100-200 metri sottoterra abbiamo diverse falde acquifere da cui preleviamo l'acqua con i pozzi per distribuirla negli acquedotti. Come ce lo immaginiamo questo sottosuolo? Cioè la falda com'è fatta? Ma ecco, spesso l'immagine che abbiamo appunto è quella di laghi, di fiumi. In realtà non sono fiumi, non sono laghi, ma è proprio terra, terreno, saturo di acqua. È un po' come quando in spiaggia con la paletta scaviamo un buco di 10 centimetri, 20 centimetri, si riempie d'acqua, dobbiamo scavare 30-40 metri e incontriamo terreno saturo di acqua che va a riempire il buco, diciamo, il foro, che poi è il pozzo. E con una pompa, come diceva prima, solleviamo l'acqua e la portiamo alle case dei cittadini. Ecco, per completezza di informazioni, noi stiamo parlando dell'area della pianura padana, dell'area di Milano. Ovviamente non in tutta Italia è così, infatti ci sono zone che hanno abbondanza di acqua, come appunto noi qui in Lombardia, noi ci troviamo in Lombardia in questo momento, e zone invece che hanno molta più difficoltà, perché questo terreno è molto meno intriso di acqua. Questo sicuramente, ma bisogna anche dire che la maggior parte del mondo si approvvigiona d'acqua invece da laghi o da fiumi o da bacini artificiali, per cui non acqua del sottosuolo, ma la cosiddetta acqua superficiale. C'è una normativa che richiede la presenza di certi elementi nell'acqua e che invece ne esclude degli altri. In Italia sottostiamo a una direttiva appunto della Comunità Europea che regola il mondo dell'acqua potabile, stabilisce chi deve fare i controlli, quali sostanze si devono cercare, i limiti in concentrazione che devono essere rispettati perché l'acqua sia considerata potabile. I limiti sono stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ci sono dei composti che fanno bene alla nostra salute, parliamo del calcio, del sodio, del magnesio, sono sali minerali utili per l'organismo umano. Ci sono sostanze invece cosiddette indesiderabili, che non ci devono essere o ci devono essere a concentrazioni molto molto basse. Queste possono essere i pesticidi, possono essere gli erbicidi, possono essere metalli, alcuni metalli tossici, parlo del piombo, del cadmio, solventi dell'industria chimica, cloroformio per quelli più conosciuti, trialina o composti del genere, non devono essere presenti nell'acqua o comunque a concentrazioni molto molto limitate. Proprio per questo, visto che appunto non c'è un bacino unico, un lago, un fiume sotterraneo unico, ma ci sono tanti pozzi posizionati in diversi luoghi, ecco, può cambiare la qualità dell'acqua da un posto all'altro? Può essere che in un punto sia buona e a 100 metri ad esempio non vada più bene o che appunto abbia dei contenuti poco buoni? Ecco, magari non a 100 metri, però a distanza di chilometri la qualità dell'acqua sicuramente può cambiare. Questa dipende, se parliamo di acqua sotterranea, la qualità dipende dal tipo di rocce che l'acqua piovana attraversa quando cade e può dipendere da inquinamenti locali dovuti a industrie, centri urbani o agricoltura, se siamo in una zona agricola, dove si utilizzano appunto pesticidi o fertilizzanti nei campi. Dunque l'acqua, abbiamo detto, ha detto lei, che arriva dalle montagne, no? Lo sappiamo, ma non arriva ogni giorno. Allora la domanda è: l'acqua che beviamo quanto è vecchia? Ma abbiamo fatto, nella nostra zona abbiamo fatto degli studi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. L'età media dell'acqua che noi solleviamo ha una media di 30, 40, 50 anni, cioè è acqua che è piovuta 30, 40 anni fa. Abbiamo, giusto per una nota di colore, abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua abbia invece 3.000 anni, come un temporale degli antichi romani ha caricato insomma la falda acquifera di quel pozzo. Questa informazione è molto suggestiva. Intanto ci ha detto che l'acqua ha un'età, invecchia bene anche, appunto, perché questa di 3.000 anni com'è? Buona? Sì, è buona. Questo pozzo, l'acqua è buona. Sicuramente non è stata inquinata dall'inquinamento industriale nostro, perché 3.000 anni fa i romani non inquinavano l'ambiente. Grazie mille davvero, Barili. Buona ricerca presso i vostri laboratori e a presto. Grazie, buon lavoro a voi. Buon lavoro anche a lei. Federico, non pensavo davvero che ci fosse dell'acqua così vecchia, che fosse disponibile adesso. A me certo piacerebbe che un bicchiere di 2000 anni fa, berlo. Però loro hanno detto che sono uguale. Ah sì sì, assolutamente. Vabbè, insomma, vi lasciamo così, cari ascoltatori, e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Chiara. Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.